Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle. Riascoltiamo la puntata di Melog andata in onda il 24 novembre. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Molte volte l'illusione di essere civilizzati ci lascia indifferenti di fronte a alcuni residui, alcuni retaggi arcaici nei comportamenti, nei pregiudizi, nei modi d'essere, nei modi di pensare verso alcuni nostri simili. Sto parlando delle persone che oggi, con un concetto molto edulcorato, molto politicamente corretto, molto carezzevole, ma allo stesso tempo nasconde un termine che nasconde una spietatezza senza limiti, soprattutto in questa particolare circostanza storica e soprattutto in questa nostra condizione di occidentali post-industrializzati, ipercivilizzati, ma sottoposti a una grande crisi economica. Il termine è quello di disabile. Cosa significa una persona disabile? Significa una persona non in possesso di tutte le abilità psicofisiche che hanno la maggior parte delle persone cosiddette normodotate. Figuriamoci sui disabili, ma siamo tutti d'accordo, siamo tutti pieni di compassione, siamo tutti ammirati per le persone, le famiglie, i genitori, le associazioni, i volontari che se ne occupano. Premetto, lo dico, non mi piace insistere molto sugli aspetti autobiografici e personali. Io sono genitore di un ragazzo disabile, quindi conosco il problema. Non sto parlando di qualcosa per sentito dire, per riferito o facente parte soltanto dello spettro delle mie investigazioni e curiosità giornalistiche. No, parlo di un problema che conosco e vi dico in coscienza, profondamente consapevole di quello che dico e profondamente corroborato la mia esperienza personale, che raramente abbiamo avuto un momento di così profonda spietatezza indifferenza nei confronti dei disabili. Eppure ci rifacciamo a alcuni valori della nostra società che sembrano ben lontani da alcune arcaiche, lontane e detestabili visioni di questo problema. Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro. Non hanno chiesto loro di venire a questo mondo. Eppure sono qui, tra noi. Si riconoscono in un codice che nessuno ha mai scritto. Offendetene uno e si sentiranno offesi tutti quanti. E ora, signore e signori, seguitemi da questa parte. Vado a presentarvi... Quante volte in tempi passati vi ho parlato del film di Todd Browning, Freaks? Un film pieno, denso di significati, di ispirazione, un film che segna un punto particolare nella storia del cinema. Siamo i primi anni 30, un film che fu fortemente censurato. Questo regista prese e portò in scena quelli che erano considerati gli scherzi della natura. Alcuni nani acondroplasici, alcune persone con altri tipi di anomalia, sia fisica sia psichiatrica, diremmo oggi, messi insieme in un grande circo e mostrati come una sorta di fenomeno da baraccone. Ma la cosa che tende a dire il regista è molto più sottile, che all'interno del cosiddetto mondo dei mostri esista un codice d'onore, esista una sorta di fratellanza, ne tocchi uno, ne tocchi tutti. E infatti la bella Cleopatra, spregiudicata soubrette, che fece innamorare, rovinando la storia d'amore, il nano Hans, fu duramente punita dal mondo di Freaks, fu lei stessa trasformata in un essere deforme, amputata, trasformata in donna gallina. La morale era: non li toccate perché in qualche senso sono pericolosi, bisogna stare attenti. Sono passati vari anni da allora, ma qual è oggi la situazione nei confronti dei freaks, chiamiamoli così, quelli che tutti, sì, è chiaro, li considerano disabili, ma provate ad andare con un ragazzo disabile in una metropolitana, in un autobus, soprattutto quando è piccolo, soprattutto quando la disabilità non è così palese, non è così apparente, ci vuole un po' di tempo, più di attenzione per individuarla. Guarderanno come una persona che ha vicino un ragazzo maleducato. Ma perché questo ragazzo strilla? Perché si butta per terra? Perché non lo educa bene? Perché non gli fa capire in realtà qual è il senso della buona educazione. Andando avanti ancora poi, e gli occhi compassionevoli sono la migliore delle letture che avrete attorno a voi. Le persone vi guarderanno, tirando giù le spalle, poveracci con quel problema, ma poverini come faranno, con quella croce, quella disgrazia. Ma perché un disabile viene sempre considerato come una sorta di saetta divina, come una disgrazia, come qualcosa che attraversa in maniera nefasta l'esistenza di alcune persone? 800 24 00 24, voi come la pensate? Sia che soffriate il problema o che abbiate questo privilegio, questa estrema possibilità di conoscenza profonda dell'umanità in famiglia, sia che guardiate dagli fuori, dalla condizione dei più fortunati, di quelli che non conoscono il problema. Non ho le mie mutande. Cosa? Assolutamente non ho addosso le mie mutande. Ma che stai dicendo? Se te ne ho dato un paio delle mie stamattina. Quelle non sono le mie mutande. Ti avevo detto di andare in bagno a metterle. Dove sono? Certo, sono nella tasca della mia giacca. Dove? Guarda, sono troppo strette. Non le voglio indietro. Queste non sono boxer, i miei invece sono boxer. Che differenza fa? Sono queste sempre sono mutande. NS32. Sui miei boxer invece c'è scritto il mio nome, Raymond. Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer. Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati. Noi non torniamo a Cincinnati, Ray, cerca di smettere. 400 Oak Street. Non torniamo a Cincinnati, non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare i boxer. Un altro esempio, prendo gli esempi dalla storia del cinema, quando ha lambito questo problema. In realtà sono sempre film che hanno comunque segnato il passo, segnato la storia. Rain Man ha preso 4 premi Oscar per la miglior regia, miglior film, miglior attore protagonista. Dustin Hoffman fa la parte di un signore autistico con autismo che molti vorrebbero avere in famiglia, sinceramente, perché ha una sua forma di autonomia, una sua forma di pensiero ragionato, parla, articola, è un Asperger probabilmente, molto più che autistico, quindi è in forma meno acuta e meno grave di chi passa la giornata da una crisi all'altra guardando contro un muro. È un fratello che Tom Cruise che lo prende, passano alcune giornate assieme. Rivela questo film che in realtà la persona che apparentemente è stata segnata da questa sorta di divina premonizione di diversità ha dei talenti molto particolari. Qui è molto esaltato, è molto amplificato, ha una conoscenza matematica eccezionale, memorizza in maniera fantastica gli elenchi del telefono, però comunque una riflessione più avanzata. Ma questo ha cambiato qualcosa? La percezione è diversa? Come si va in giro quando si ha accanto un familiare, un figlio, una persona comunque che soffre di handicap? Poi questa mattina voglio parlarne con un medico che ha voluto, oltre che la sua particolare area, branca della medicina, studiare e specializzare la storia della medicina. Il professor Massimo Fioranelli, buongiorno. Buongiorno a lei. È un cardiologo, docente universitario di storia della medicina e ha scritto un fantastico libro per l'edizione La Terza, lo dico perché conoscendo il problema l'ho analizzato bene, che è Il decimo cerchio, appunti per una storia della disabilità. Il professor Fioranelli fa un'analisi, diciamo, dalle origini della storia fino ai tempi nostri, qual è stata la percezione generale della persona disabile. Innanzitutto, perché il decimo cerchio? Cos'è il decimo cerchio, professore? Guardi, il decimo cerchio è quel cerchio che manca nell'inferno dantesco, dove c'erano tutti i peccatori, ma non mancavano dei peccatori particolari, coloro che non erano conformi all'idea di normalità. Era un peccato imperdonabile e non erano all'inferno perché il loro inferno era già sulla terra. La storia della disabilità è una lunga storia. Inizia al tempo dei Greci ed è un lungo viaggio in un dolore profondo, in una solitudine assoluta. Perché la disabilità nella storia è stata ed è purtroppo declinata con vari sinonimi. Colpa, orrore, diversità. Ma soprattutto oggi, in questo mondo che tende a valutare gli esseri umani in base al loro contributo economico, all'efficienza, i disabili sono inutili. Purtroppo questa è la crudeltà della società nei confronti della disabilità. 800 24 00 24. Stefano Trasatti, buongiorno. Buongiorno. Stefano Trasatti ci seguirà per rappresentare il Côté contemporaneo. Stefano è un giornalista che ha dedicato la maggior parte della sua vita professionale proprio al giornalismo di tipo sociale, direttore dell'agenzia di informazione, redattore sociale, direttore editoriale del sito www.superabile.it, che è il sito nazionale sulla disabilità promosso dall'INAIL, che è un punto di riferimento per tutti coloro che cercano di arrabattarsi, di muoversi nel complicato mondo delle burocrazie, che sembrano far di tutto per rendere la vita difficile. Esistono delle palesi possibilità di avere comunque dei supporti, degli aiuti in un paese in cui ogni giorno leggiamo di centinaia di ciechi che guidano l'automobile, di storpi che fanno il salto in alto, di signore che per 9 anni riescono a lavorare sei giorni in 9 anni come dipendenti di un ospedale. Quindi un mondo in cui in realtà i riconoscimenti alla disabilità sembrano ampli, ma in realtà poi la burocrazia sembra far di tutto per metterti in un clima di pastoie. Ecco Stefano, abbiamo soltanto accennato il grande pregiudizio storico. Il disabile è colui che popola il cerchio infernale di coloro che vivono già la loro pena sulla terra, quindi è un condannato. Hai qualche eco contemporanea di questo atteggiamento lontano che sembra scomparso? Beh sì, sembra scomparso, e in questo senso il libro di Fioranelli è utilissimo ed è anche il segno positivo, vorrei dire, di una editoria che negli ultimi anni ha cominciato ad affermarsi, cioè grandi editori hanno scelto di pubblicare libri del genere, libri sulla disabilità di carattere storico, e questo è un dato positivo, così come è positivo che chiaramente molte delle cose, anzi la maggior parte delle cose che nel libro sono raccontate, per fortuna oggi sono superate. Il problema è che non sono superate del tutto e continuano ad essere... Sì, non vengono buttati da un monte, non vengono sterminati, non vengono... No, però l'atteggiamento è molto più sottile. I padri della nostra filosofia e del nostro diritto dicono assolutamente, se nasce un figlio diverso va subito ucciso, non bisogna perdere tempo. È vero, professore? Certo, assolutamente. L'incipit di questo libro è una frase di Seneca, nec ira sed ratio. Non è ira, è ragionevolezza sopprimere gli esseri inutili, così Seneca li definiva i disabili in quel tempo. Ma questa sottile linea di confine tra patologia e normalità, questa concezione della disabilità, anche se, come è stato detto, un pochino più attenuata, però ritorna ogni volta che c'è una crisi economica, una crisi sanitaria. Voi pensate solamente a quello che è successo nel 2009, quando sembrava che tutti dovessimo morire di influenza. Ci fu una campagna di vaccinazione e su vasta scala, i vaccini mancavano. Bene, il New York Times riporta il piano sanitario dei vari stati negli Stati Uniti. Bene, a chi non doveva essere somministrato il vaccino? A dializzati, anziani, malati terminali, handicappati fisici e psichici. Che cos'è questo? È un ritorno ancora di questo concetto così crudele nei confronti dei disabili. Nonostante che l'ONU nel 2008, nell'articolo 25, dice che i disabili hanno il diritto alle stesse cure, alla stessa intensità e qualità di cure dei soggetti considerati normali. Bene, nel 2010 sull'American Journal of Transplantation alcuni ricercatori del Policlinico Gemelli hanno analizzato i criteri di trapianto nella regione Veneto. Bene, il ritardo mentale è una controindicazione al trapianto. Di fatto si escludono pazienti con disabilità intellettiva a questa terapia. Questo è in antitesi, in contraddizione con tutto quello che è stato detto a livello internazionale della risoluzione dell'ONU. Allora Stefano, un tuo primo commento a questi dati che porta il professore. Sì, la testimonianza è che questa cultura che nei secoli è stata espressa in modi così netti, così orribili, che oggi ci sembrano orribili, non si è del tutto spenta e in parte continua a covare sotto la cenere per riemergere appunto in situazioni di presunta difficoltà. Questo testimonia che la persona disabile non è mai ancora oggi, questo è il grande problema, non si riesce mai a considerare la persona disabile come normale, come la disabilità come una delle tante infinite condizioni umane che tutti noi possiamo. Diciamo che è comunque una condizione che ti limita i tuoi diritti civili, in qualche maniera. La percezione è questa, come ci potrebbe confermare forse l'ascoltatore Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Andiamo al punto velocissimo, che ho molte telefonate. No, il punto è questo, io confermo, lei ha detto due parole, due vocaboli. Spietata indifferenza. Perché la conosco purtroppo. No, l'ha detto lei. No, sì, no. Sì, perché la conosco bene. Sto fatto dire purtroppo, dice lo conosco purtroppo. Già, il purtroppo. Ne farei meno volentieri, lo dico a sincerità, non è che ci vado a nozze, però la conosco. Io sì. tre ne ho tre. Lei c'ha un figlio disabile, lei? Sì. Io ne ho tre. Una c'ha due lauree, la prima. La seconda ne ha una, l'ultimo è il 100% mentale. Va bene? Sì. Tutte e tre sono non vedenti, cioè vedono poco, ipovedenti, no, non vedenti. Allora, la spietata, come ha detto lei, indifferenza di tutti gli uffici pubblici amministrativi, sanità, comune, provincia, eccetera. Lei si immagini che per avere il tagliandino per i disabili, io ce l'ho da anni, per rinnovarlo io ho portato il certificato medico dell'oculista, quello originale, non va bene, ci vuole quello del medico curante. Cioè, ma lei si immagini, ma se la patologia è della vista e per ottenere il tagliando all'inizio è stato quello, sì, non è che poi un cieco migliora, e questo è il problema, io lo so. Bravissimo. E poi un'altra cosa, diciamo, per il fatto di migliora o non migliora, sono queste le prassi, pazienza, o fanno un verbale di pensione di invalidità nel 16 dicembre 2010, passo diciamo da palo in brasca, nel senso, questo è l'INPS, no? Fanno, chiamano a visita di controllo mio figlio, tutto a posto, fanno la visita, eccetera. Dopo sei mesi ci arriva, cioè a giugno 2011, che mio figlio non si era mai presentato e che avrebbero tolto la pensione se entro un certo periodo di tempo, 60 giorni, non si sarebbe presentato. Sì. Io ci vado immediatamente e dico, ma guardi che noi... Ah, aspetti un attimo, là sopra, gira, sale, sì, guardi, ha sbagliato Roma. Allora Francesco, sì, mi fermo solo un attimo perché potrebbe andare avanti per tutta la durata della trasmissione. Sappiamo che il problema è questo, siamo perfettamente consapevoli, e se no non avremmo fatto questa trasmissione, che esiste comunque un limaccioso, sotterraneo senso non tanto di pregiudizio, vogliamo dare per scontato che è stato superato, almeno da un punto di vista di percezione del problema, ma di senso di classificazione, una categoria inferiore delle persone, comunque hanno meno diritto degli altri. Perché? Perché non sono uguali agli altri, che sono meno efficienti. Gabriella La Rovere, buongiorno. È caduta Gabriella La Rovere, allora siamo Andrea. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Io posso dire questo, diciamo, dalla mia esperienza. Io ho una disabilità e la mia disabilità consiste in una forma di malformazione. Nonostante questo, però, posso dire di avere una vita autonoma. Quindi, diciamo, che nella mia sfortuna, ho comunque avuto una fortuna, quella di poter condurre una vita sostanzialmente autosufficiente. Autosufficiente, esattamente. Il quadro che è stato... Che sembra, adesso direi autosufficiente, dicono, vabbè, allora che vuoi dalla vita, capito? Ecco. Sembra così, però vorrei anche spiegare questo fatto, autosufficiente a prezzo di sforzi notevoli rispetto all'autosufficienza data per scontata di qualunque altra persona. Assolutamente sì, non potrei, diciamo, dire una bugia se negassi gli sforzi che ho compiuto. Però ecco, io volevo dare un messaggio di positività, se così può passare. Io ho sentito finora dei contributi importanti sui quali mi ritrovo. Sono contributi purtroppo a tinte fosche, questo perché credo prevalga ancora il concetto di tolleranza nei confronti della persona diversa, della persona portatrice di disabilità. Sta dicendo una cosa molto giusta, è vero, finché noi penseremo che esiste la tolleranza, classificheremo sempre in una condizione di inferiorità la persona disabile. Esatto, penso che i tempi però siano maturi per fare un salto e quindi passare dal concetto di tolleranza al concetto di accettazione. C'è ancora comunque tantissimo da fare, gli interventi che sono stati ci sono stati finora ne danno, diciamo, un pochino la cifra. C'è da lavorare molto sulla cultura, sulla percezione, c'è da lavorare anche però credo sulle possibilità che il singolo può avere, quindi non deve essere soltanto il disabile e la famiglia del disabile a chiedere allo Stato qualcosa, ma deve essere il disabile e la famiglia del disabile a chiedere a loro stessi che cosa possono fare per trovare delle soluzioni. Io, permettetemi, ho una visione un pochino individualista. No, ma tu hai senz'altro ragione. È passare dalla fase del assistenzialismo tout court, del doversi sentire compatiti, aiutati a tutti i costi, ad essere attivi. Ma ti assicuro, lo sai anche meglio di me, che ormai l'associazionismo spontaneo tra famiglie disabili è una realtà molto, molto reale. Molte volte le campagne proprio di opinione, di pressione rispetto a certe discrepanze nel sistema pubblico hanno il loro peso. Professor Fiorenelli, un commento a questo ascoltatore. Ma guardi, quando c'è un momento di crisi vi è una sospensione dei diritti, e la sospensione dei diritti riguarda quasi sempre le persone più deboli. Diritti che sembrano acquisiti possono essere cancellati pezzo dopo pezzo, silenziosamente rimossi, in nome della necessità e del comune buonsenso. Questo provoca nei disabili una carenza di attenzione da parte dello Stato. Quando le risorse sono poche, i primi a soffrirne sono le persone più deboli. Ma fare marcia indietro sulla strada dei diritti e lasciar prevalere il mito dell'uomo produttivo e quindi dell'uomo utile è una sconfitta storica, è gravida di rischi per tutti, anche per noi, per tutti quelli che si ritengono sani, normali. Ed è una cosa che si ripete sempre nella storia, e anche oggi lo vediamo. In un momento di crisi vengono meno gli apporti, i contributi economici, l'individuo da solo può far molto poco se non c'è uno Stato, un'assistenza che cerchi di aiutare queste persone, che possiamo considerarle sicuramente degli esseri umani a tutti gli effetti, anche dal punto di vista culturale. Vogliamo fare degli esempi di grandi uomini che hanno fatto la storia dell'umanità, che erano disabili. Vogliamo cominciare da Giulio Cesare, che era un epilettico, per andare a Beethoven, che era quasi sordo, a Monet, che era quasi cieco, ha dipinto dei quadri stupendi, e a Einstein, che ha rivoluzionato la scienza del Novecento, aveva dei tratti autistici. Cioè, il talento non ha limiti. Non possiamo relegarli in un contesto di emarginazione sociale. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La vita è piena di sorprese. Riflettete un momento sul destino della povera madre di questa creatura. Investita mentre era quasi al quarto mese di gravidanza da un grosso elefante, da un enorme elefante. Travolta e calpestata in terra d'Africa, su un'isola sconosciuta. Il risultato potrete vederlo. Signore e signori, il terribile uomo elefante. Un'altra fantastica rappresentazione dell'uso che storicamente veniva fatto della diversità, appunto, la storia, pare che ci sia un fondamento di storia reale, del film, rappresentata dal film del 1980, David Lynch, Elephant Man. L'uomo elefante era un uomo che in realtà aveva una patologia molto, molto già descritta, esistente in realtà, ma lo faceva assomigliare a un elefante, quindi era stata inventata per lui un'origine mitologica. La madre si era scontrata con un elefante, qualcosa di mitologico, capito? Come il Minotauro che nasce dall'orrenda unione fra la madre e un toro, e quindi nasce quest'essere deforme. Beh, oggi stiamo parlando della disabilità nel mondo moderno. Quanto ci è rimasto di retaggio di questi pregiudizi, di queste antiche credenze, che fosse frutto di una maledizione, di un segno divino? Tanto che il professor Massimo Fiorenelli, cardiologo e docente universitario di storia della medicina che abbiamo in studio, ci ha scritto un libro intitolato Il Decimo Cerchio, Appunti per una storia della disabilità, edizioni La Terza. Ricordo, il decimo cerchio è quello di coloro che già scontano l'inferno sulla terra, e quindi i disabili. Ecco, sull'uomo elefante, professore Fiorenelli lo cita nel suo libro. I'm not an animal, I am a man. Non sono una bestia. Questo John Merrick, che nasce sano e poi sviluppa questa malattia, una neurofibromatosi, viene cacciato dalla famiglia, si ritrova per strada a mendicare, finché un impresario privo di scrupoli lo prende e lo mostra in questi spettacoli, in questi circhi che nell'Ottocento con Barnum hanno preso piede. E questo uomo... Non dimentichiamo che il nano da circo è un personaggio contemporaneo. Ancora, se uno guarda il circo in televisione, c'è il nano da circo. Guardi, nella primavera del 2009. E Canale 5 ha mandato in onda una trasmissione, lo show dei record. Noi pensiamo che queste siano cose avvenute nel passato. Bene, il piccolo uomo in braccio a Barbara D'Urso, esatto, che affondava tra le sue tette, poi anche morto l'ultimo. È morto in attesa di entrare in una trasmissione. Questo è un'immagine che ci riporta indietro, quando ci poniamo delle domande e non troviamo delle risposte, un punto di osservazione privilegiato è sempre la storia, perché è sempre successo in passato e il passato ci dà un'interpretazione di quello che avviene oggi. Io ho scritto questo libro, ho pensato di scrivere questo libro leggendo un libro meraviglioso che è L'uomo che ride di Victor Hugo. Ci sono delle pagine di una lirica così che prende proprio l'anima, la storia di questo bambino rapito, un bambino di una famiglia aristocratica, rapito e deformato. Che era stato tagliata la bocca perché sembrasse che perennemente ridesse. Rideva, quindi ogni angoscia che passava per questo essere doveva essere comunque coperta allo sberleffo della sua eterna risata. Abbandonato al freddo e alla fame in uno di quei pomeriggi invernali inglesi, questo bambino vaga nel deserto, nel freddo, trova una piccola morta in braccio alla mamma, morta di fame, la prende, la accudisce, e trovano un signore che gli dà da mangiare, gli dà un tetto. E tra questi due bambini, uno deformato e l'altra cieca ma bellissima, nasce una storia d'amore. E Victor Hugo paradossalmente ci dice che il vero handicap è avere occhi che vedono, perché questa ragazza trova in quest'uomo quell'umanità, quei sentimenti, quella profondità di vita che non avrebbe potuto vedere se avesse avuto gli occhi per vedere. È questa la profondità di questo messaggio di Victor Hugo. Questo significa che una mente eccelsa come quella di Hugo, che nel 1869 già aveva questa illuminazione che oggi sembra così rara. Abbiamo recuperato Gabriella La Rovere. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Ecco, ti presenti te e dici esattamente la tua situazione, la tua condizione, quello che vuoi dire e aggiungere a questa trasmissione. Allora, io sono una mamma di una ragazza con disabilità mentale, oltre che una disabilità fisica perché ha una malattia rara. Devo dire, ho ascoltato parte di quello che avete detto, vorrei aggiungere che attualmente queste persone sono invisibili e come loro sono invisibili anche i genitori. In realtà non ci siamo, ma non ci siamo non tanto e solamente per chi ci sta accanto, nel senso per il vicino di casa, molte volte noi siamo invisibili anche nella stessa. Difficile potersi integrare, quindi la disabilità è una disabilità che colpisce a 360 gradi tutti quanti, almeno tutti quelli che ruotano. Comunque normalmente, per come ti vedo, ti seguo su Facebook, sì, perché sei una delle più attive mie amiche, il segno fondamentale della tua attività, del tuo quotidiano, non è improntata a questo senso di rassegnazione e tristezza, ma mi sembra che tu ti stia dando da fare anche in senso attivo. Tanto sono che... assolutamente un'indignata incazzata, no, ma assolutamente no, cioè nel senso non mi sto lì tanto, quando vedo qualcosa che non funziona prendo e dico e parlo e denuncio, cioè in assoluto, perché è inconcepibile. E quindi penso che tu voglia che io ti dica perché che cosa sto facendo. Sì, credo che questo mi interessa. Sì. Allora, mi trovo qui al Palazzo della Provincia di Perugia, dove c'è la presentazione di un progetto che viene chiamato Care Card o passaporto per l'emergenza. È un documento che è disponibile in forma cartacea e anche sotto forma di chiavetta USB, dove sono contenute sia tutte le informazioni sanitarie dei nostri figli, che adesso parlo come genitore, sia anche le caratteristiche, cioè nel senso in che modo rapportarsi, qual è la funzione. Nel caso in cui il ragazzo si dovesse trovare in emergenza e io per esempio non fossi vicina a mia figlia ha con sé questa chiavetta a forma di bracciale e questa parte cartacea in cui la gente che si trova a prendere, insomma, a soccorrerla sa tutto, sa di che cosa soffre, sa qual è il suo gruppo sanguigno, sa anche in che modo per esempio gli può dire come si chiama, come piace essere chiamata, che cosa non vuole essere toccata subito. situazioni che consentono di entrare in contatto e quindi di aiutare questa persona. Quindi Gabriella, questo te l'ho fatto raccontare perché fa intuire che in realtà una persona con delle disabilità ha una gamma di necessità, di bisogni molto più sottili, delicate e articolate rispetto al semplice fatto, vabbè, che vuoi, gli dai da mangiare, te la tieni a casa, c'è una persona che te la guarda, che non si faccia male, ma è molto più articolato. Se vogliamo consentire un livello di vita accettabile, perlomeno ugualmente intensa come quella di un'altra persona, esistono delle sfere che nessuno pensa, che è l'affettività, è la relazione, è anche la sessualità. Ci sono dei campi che assolutamente nessuno vuole toccare, perché il disabile comunque è condannato a essere casto a vita, anche questo non si capisce perché, è condannato a non avere amici, e quando ha davanti un televisore acceso, una badante che gli cambia il pannolone, dovrebbe essere a posto. Stefano Trasatti, tu cosa ne dici? Ricordo, direttore dell'agenzia informazione, redattore sociale, direttore editoriale del sito www.superabile.it, sito nazionale sulla disabilità promosso dall'INAIL. Ne dico che noi di questa care card ce ne occupiamo anche sull'agenzia, tra l'altro oggi abbiamo già dei pezzi pronti. Credo sia un esempio di come lo stesso mondo della disabilità, se possiamo semplificare così, cioè le stesse persone disabili e le famiglie, è un esempio di ciò che possono fare anche per cambiare la cultura, perché spesso sono gli stessi familiari, le persone che vivono attorno ai disabili, che sono vittime di un certo linguaggio, di un certo atteggiamento, di una certa cultura. Non possiamo negare che alcune parole come minorato, storpio, oppure subnormale o psicolabile, insomma, facciano parte spesso del nostro lessico, anche inavvertitamente. Io ricordo che una grandissima associazione che oggi che è gloriosa e benemerita, nel suo acronimo aveva fino a poco tempo fa la parola subnormale. La cultura è in continua evoluzione, però se il mondo della disabilità, se gli stessi disabili prenderanno coscienza di questo, se si metteranno in campo, possono uscire intanto delle modifiche accelerate a questa cultura, a questo modo di guardare la disabilità, e poi soprattutto degli strumenti per rapportarsi in modo più corretto. Questa carta, questo passaporto è una cosa fondamentale a cui pochissimi avevano pensato finora in Italia. Ci hanno pensato e visto dei genitori che assieme al loro operatore, alla fine ingegnandosi e cercando di risolvere i problemi quotidiani, hanno detto: beh, inventiamoci qualcosa. Una carta che un domani potrà diventare una chiavetta USB, un bracciavetto, un microchip, qualcosa andando avanti nella tecnologia, che comunque crea un supporto, un compensatore nelle relazioni, che sono aspetti che in realtà vengono molte volte sottratti all'attenzione pubblica, che si pensa che abbia soltanto bisogni primari il disabile. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Caspar, quello che tu dici non può essere vero, e cioè che solamente il tuo letto è l'unica cosa buona del mondo e che tutto il resto è cattivo. Sì, ho proprio l'impressione che la mia apparizione qui, su questa terra, sia stata una caduta pesante. Oh, ma Caspar, ma questo come posso fare io a spiegartelo? Questo è il famoso film di Herzog, L'enigma di Caspar Hauser. Questo misterioso ragazzo apparso improvvisamente a Norimberga, chi diceva che fosse un impostore, si fosse inventato un passato, non aveva, in realtà era vittima di un padre, l'aveva tenuto chiuso per tantissimo tempo in una stanza, in una cantina, quindi aveva avuto un trauma fortissimo. Stiamo parlando questa mattina di disabilità nella storia, pregiudizio nella storia della disabilità, cascami nella contemporaneità politicamente correttissima, lessicamente inappugnabile, che però, come vediamo, il pregiudizio continua. La persona che non è all'altezza dell'efficienza che richiede la contemporaneità è una persona che comunque, dal punto di vista dei suoi diritti individuali, va considerato di serie B. Maurizio, buongiorno. Maurizio. Buongiorno, mi sente? Sì, certo. Volevo portare un altro aspetto della disabilità. Io sono ipovedente dalla nascita e l'aspetto che mi interessa portare è quello dell'aiuto che le famiglie dovrebbero imparare a dare ai loro figli, ad accettare ciò che sono e ad affrontare la vita ed il mondo senza vergogna, portando con tranquillità quello che è il loro disagio. Io lo dico perché oggi ho 49 anni e sto tuttora pagando in termini di ansia, di grandi difficoltà della vita a livello psicologico, proprio il fatto di non essere mai stato accompagnato anche dalla scuola media. Io ho fatto una scuola quando c'erano ancora le scuole speciali elementari, in cui era una scuola per ragazzi tutti con problemi di vista, oggi quelle scuole speciali non esistono più, e catapultato poi nella scuola media mi sono ritrovato soltanto a essere sbeffeggiato, a vergognarmi e non essere accompagnato, insegnanti che non sapevano nemmeno come affrontare, cioè vedevano che guardavo le cose da pochi centimetri, ma nessuno che si fosse preoccupato di aiutare. Questo mi ha generato vergogna e l'accettazione della mia differenza dagli altri, che è una differenza soltanto sensoriale, perché per fortuna poi ho altre qualità, però me la porto tutt'oggi con un disagio grande. Le posso dire una cosa, perché non sembri soltanto una trasmissione che mette gli aspetti negativi. Oggi i veri passi avanti sono stati fatti appunto in queste classi in cui i ragazzi stanno tutti assieme. Lo dico per esperienza personale. Il vero, ciò che veramente ti fa sorridere l'anima e il cuore, è vedere che gli altri ragazzi a scuola, ma sin dalle elementari, dalle scuole, stanno dei bravi insegnanti, alle spalle hanno famiglie che comunque educano i ragazzi a questo contatto con la diversità, con persone con difficoltà. Sono il vero ambiente immersivo del ragazzo con disabilità. Nelle classi non raramente c'è questo peso, finché vanno a scuola, finché sono piccoli, ancora non lo sentono. Pare lo sentiranno più là, quando cominceranno a capire che alle feste i loro compagni sì, sono accetti, ma però ci sono sempre dei problemi. Quando cresceranno poi? Il vero problema è quando diventano adulti. Dopo l'adolescenza il disabile cos'è? Cosa diventa? È un uomo, non è più un bambino. Il bambino è perdonato, è scusato, fa parte comunque dei problemi dell'infanzia. Lì veramente comincia il problema. Giovanni. Sì, buongiorno, buongiorno, la ringrazio per avermi chiamato. Io sono figlio di una disabile, invece, e che è una disabile motoria per un incidente da quando era ragazzina, e mi raccontava appunto mia mamma di come comunque nel tempo abbia subito, forse anche vessazioni, un episodio in particolare a Milano, noi siamo di Milano, doveva andare al comando dei vigili per richiedere il pass dei disabili. Non so se qualcuno conosce il comando dei vigili di Milano, all'interno ha un cortile ed è in centro. Lei arrivò, era giovane, con la macchina, chiese al vigile se poteva mettere la macchina dentro perché non camminava. La risposta fu che lei cammini o non cammini, a me non me ne frega niente, lei qua dentro con la macchina non entra. Questo appunto è un episodio un po' triste. Fortunatamente la mentalità è un po' cambiata, ma io vedo che non ancora, perché vabbè, noi sempre sul parcheggio a Milano è impossibile per un disabile parcheggiare, perché ci sono sempre macchine infilate. Se uno magari prova a protestare viene insultato. Guarda, una delle mie attività preferite ludiche è andare in giro a fotografare nei quartieri di Roma come Prati, soprattutto le piccole macchine delle signorine molto ben eleganti che vanno nelle palestre, che le parcheggiano nelle rampe dei marciapiedi, dovrebbero essere libere per le carrozzerle, per i disabili. E questo è uno dei miei divertimenti, anche vedere i cartelli poi nei parcheggi per disabili, che mettono i disabili per chi gli occupa il posto, dice la prossima volta invece del posto pigliate anche mio figlio, e qualcosa del genere. Nunzia, sentiamo Nunzia. Salve carissimo, niente, allora ti volevo in mezzo a questi discorsi seri e seriosi, interessanti eccetera, ti volevo raccontare un piccolo aneddoto della mia condizione di disabile, premesso che io sono una disabile fortunata perché nella vita ho lavorato eccetera eccetera, e adesso a 60 anni e passa mi trovo un po' in carrozzina e frequento la chiesa perché sono credente. Allora mi è capitato in chiesa di essere considerata in alcune manifestazioni particolarmente forti eccetera eccetera una specie di santino, no? Cioè un'esperienza un po' scioccante e un po' divertente, nel senso che molte persone magari mi mettevano la mano sulle spalle oppure sulla testa, pensando che io, chissà, avessi poteri taumaturgici in quanto toccata da Dio. Eh sì sì, esatto, come se io e mi dicevano preghi per noi, no? Cioè come per dire che... Sì, come se la preghiera prego, del disabile avesse più valore. Cioè, la mia preghiera di disabile arriva a Dio più... No, forse così, dico, tanto tu non c'è niente da fare, stai sulla sedia a rotelle, c'è tanto tempo, esatto, prega esatto. per noi, è questo. Esatto, e questa è stata un'esperienza fra le tante, vabbè, che non sto qui a sì, raccontare. Sì, guardi, è altrettanto infame, schifoso e limaccioso questa sorta di atteggiamento iconografico del disabile quanto quello che lo vorrebbe morto. Beh, professor Fioranelli. Intanto i disabili non potevano somministrare sacramenti, questo dal Concilio Tridentino. E già risaliva all'epoca dei Romani, dove i reduci anche dalle battaglie, gli eroi, non erano mutilati, ma non potevano somministrare, officiare alle cerimonie religiose. Omero non cita mai un eroe ferito, un eroe mai, mutilato. Mai, non esiste l'eroe disabile, non esiste nella mitologia. Nella mitologia ci sono degli dei disabili, questo sì, ma Omero non riconosce l'eroe disabile. Ma c'è una frattura storica nella concezione della disabilità e questa frattura avviene con l'illuminismo. Denis Diderot venne arrestato per aver diffuso delle idee sovversive, perché scrisse una lettera sui ciechi ad uso di quelli che vedono. Lui dice che la normalità, il concetto di normalità è una convenzione sociale. Quello che è normale oggi non lo è in un'altra epoca storica, in un'altra area geografica. Ecco, speriamo che oggi, che questo concetto è ancora più esasperato, ancora più crudemente realizzato, questa trasmissione abbia avuto per qualcuno un senso questa mattina. Grazie a tutti gli ospiti, a domani. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.